vecchie che famo notti. Balla, balla, D'Agostino non ti molla, molla. Col suo ritmo lui ti incolla tra la folla. E di colpo all'improvviso puoi vedere il paradiso, il paradiso. Balla, balla, la sua musica è sempre più bella. D'Agostino resterà la stella della disco, il movimento prende un andamento lento, lento, lento. Titolo? Ragatanz. Artista? La Tana del Suono. Minutaggio? Agosto. Eh? Però M2O. Agostino. Siento. ¿Eh? Está. Sì, sì, ho capito. Siento. Eh? Tu voz che mi sta trasportando. Non giochiamo. Siento. Working on the

ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. M2O, domenica pomeriggio, 12 marzo 2006, dalle 15 alle 17. Al SIP Fiera di Rimini, nello stand M2O Newmark. Arrivano da lontano, Provenzino e D'Agostano. Ascoltando, fratello. Hold on. Bella, mi piace questa qua, è forte, forte, molto forte questa qua. Dimmi un po' di chi è. Love Transistor. News. Yeah. always know what I want. Love's a savant, love's a savant. You always do the things that turn me on. M2O, ipnotico elettronico. Ipnotico elettronico. Melodico. Romantico sinfonico. Ascoltando Fresca Losca, lento violento man. Discoteca Ultimo Impero. Discoteca Via Autostrada 1, Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino, che sono io, Luca Nois, che è lui, e Daniele Mondello, che è l'altro. Ci vediamo lì. Di venerdì. Ci vediamo lì. Di venerdì. Titolo Pigia Pigia Lento Violento Man. Accelerata, va. Cosa stiamo ascoltando, fratello? Techno Wants. Artista. Orchestra Maldestra. Versione. Gigi Wants. La trovi in vendita o me la devo scaricare? Electro Gods, Adam Bounce, Techno Ones, Techno Stop, Electro Gods.